ascolto. CQ10, CQ10, c'è qualcuno in ascolto, cambio. CQ10, c'è qualcuno in ascolto. Hola, CQ10, c'è qualcuno in ascolto. C'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Chi è avanti? Avanti sul canale 10, c'è qualcuno in ascolto. CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto. CQ10, c'è qualcuno in ascolto. C'è qualcuno sul canale 10? Ci sono io. Avanti, chi è? Siamo Mariano. K. Natalino Alfa 1 da questa parte. Non capisco. Mi senti? Avanti. E hanno messo la portante, l'altro. Non mi ha fatto modulare, capito? Non so per quanto prendo perché sono in movimento. Giocati col pisci come di sera, vaffanculo, muri. Mi sai dire se c'è un canale? C'è un testa di cazzo che non mi fa parlare. Sono i pipla qua. Chi è avanti? C'è qualcuno sul canale 10? Andiamo a portarti a Natalino. Oggi è da mattina che non sa cosa fare, capito? Quando è la stima di te che sta mando? Vabbè, ciao. Ciao, purtroppo c'è la portante, non ci possiamo fare nulla. Comunque so chi segni, occhio, chi non finisce ad andare i lumi, si sta segnalato. Adesso ti sputano con tutti quanti. Tu ti credi furbo, ma sei un ignorantone. Hai visto che ieri abbiamo parlato ugualmente e non ci hai trovato, perché tu non ne hai di quei canali. Sei un pirla. Attenzione che io sono sempre in ascolto, anche se non parlo. Hai detto che non te ne esco da dietro e ti faccio un bello scherzetto, mi ti fa. Ma bello te lo fa. Attenzione 10, c'è qualcuno? Ciao, vabbè. C'è una portante però, e non so se passo. Con le stesse in chiuso, ma arriva Santiago sì. Natali, ti sento sotto, però ti disturba tantissimo. La portante è 9.25, tu sei 9.20 quasi. Guarda un po' adesso quanto so. Già lo passi, però ti disturba. Già lo so, se con le referie in chiuso mi arriva Santiago sì, ti sto dicendo. Ti disturba parecchio, Natali, quando attacca a fischiare ti disturba. E se un po' stai guarda, non mi voglio girare, non me ne frega niente, guarda. Io intanto abbiamo parlato ugualmente. Abbiamo parlato tutta la sera e lui non ci ha trovato perché è un ignorante. Natali, ma a me mi passa? Non ti passa a te. A te non ti passa, perché tu sei in mezzo. Cerca di capire chi è. io passavo, perché sono io figlio. Capito? Invece se lui mi tappa, come mi stai dicendo, non è quella persona, è un'altra persona che è. Tu sei in mezzo a lui. Non lo so, questo segnale non lo so, Natalie. Più o meno come l'altra volta, però sembrerebbe un po' più forte. È più forte, ti sto dicendo. Se riesci a tappare a me, non è quella persona che sappiamo, è un altro questo, che non sa cosa fare da mattina presto. Io non capisco che gusto ci provi. Natalì, ma lo conosciamo? A Vuglia se lo conosci. Che entra qua in radio? Vuglia, se ti sto dicendo che lo conosci, e boh, non lo so, Bucchi, sì, chi possa essere, non lo so che divertimento ci prende, ma la mette anche a me la portante. Oh, a me la mette, ne l'ho detto tutti i colori poco fa. Ma comunque già sta respirando male, già crepa, non ti preoccupare. Non lo so io. C'è un bel di propagazione comunque, arrivano segnali 9+20. Ieri ho fatto dei bei collegamenti con l'Olanda, con la Germania, Francoforte c'era ieri, belli, belli forti, in FM arrivavano a fondo scala qua. Ehi, lo so. In caccia lo sa quanto pompa questa cosa, quasi 200 watt in bella natura. Adesso ci sono anche rumori esterni, dai. Ehi, perché non ti vuole tappare a tutti i frutti? Luci di luci arriverò. Ma dove è più vicino a me questa persona? E allora, signore e signori, se sei in mezzo tu come mai passi? Tu passi pulito, pulito, a te non ti fa un tubo se sta mettendo la portata. Però la sta mettendo a me, non a te. Se la piglia con Giulia o con me, allora perché non è tua la vita? La gelosia ce lo mangia, deve essere. Di cosa deve essere geloso non ho capito. Natalì, io già lo sai come sono fatto, a me dice cose, non mi ha mai sentito e mai visto, non mi arrabbio neanche a chi non me ne ha fatto nulla, l'ho sempre detto, la radio è un divertimento, non è un lavoro, se fosse stato un lavoro per dire che utilizzo la radio per lavoro e mi disturbi, a quel punto avrei fatto una denuncia, ma sinceramente non me ne ha fatto nulla, si stancherà, cosa vuoi che ti dici? Se si stanca si stanca, e se non si stanca, io lo so cosa faccio, c'è l'interruttore qua. Ma hai sollevato qualcosa tu, Natale? Sì, se sta facendo con 2,5 watt, è logico che mi ammazza. Lineare non ne ho, sono i watt della parete. Va bene, e a te quanto ti arriva per curiosità col segnale? Con le orecchie in aperto arriva a 9,60 qua. Arriva a fondo scalo. Con quello a metà, con le refighine, a metà mi arriva a Santiago, sì. Sì, ma scusa un attimino, come logica, se a te arriva a 9,60, io sono molto più basso di lui. Oia, ti sto dicendo che tu passi, o non la metti a te la portante, ma tu passi pulito pulito. E allora magari è probabile quello che non me la mette, magari gli sono meno antipatico, cosa vuoi dire? Può darsi, può darsi. A Giulio la metteva, adesso ha iniziato a metterla a me, che me ne frega un tubo se mi mette la portante. Se passo, passo, se non passo spengo, mi. Non hai ancora capito, è così ignorante, sì. Non lo so, c'è qualche donato comunque qua sul canale 10, adesso lasciamo un attimino di bianco, vediamo un pochettino. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare avanti, c'è un bel di scariche, oggi è prevista qualche scritto di acqua, sono sceso in piazza di Telavate, oggi c'è il mercatino, non verrà nessuno, tre barcarelle, vera, ne quattro, dai, zero, vuota, la città anche a passeggio, tutto vuoto. Io ero intenzionato ad andarmene al campo stamattina, però stavo cucinando e ho lasciato perdere perché non mi sento tanto bene, se no me ne sarei andato al campo. Per me non avrei passato una giornata diversa, anche senza fare niente. cosa vuol dire al campo? A quale campo? E a quello dove andavo un anno e mezzo fa. Il campo dove... Il campo di tiro, dove c'è anche il tiro al piattello, lì a fianco al campo nostro. Ah, ho capito, stavo pensando al campo di calcio. No, non hai avuto voglia e non ci sono andato. E mi sono rimasto qui. E allora stavo mettendo a tutti poco fa, la portante. È entrato due persone, gli ho detto, non vi fa parlare, sta mettendo la portante, ho detto. La mattina è lui. Non so che dirti, dai. Stata lì. Cosa? Quindi fa anche tu tiro al piattello? No, io faccio tiro dinamico operativo, quello che insegnano alle forze dell'ordine. Cosa è campione? Ho vinto un paio di gare, Marco Scorpion. L'ho visto l'altro giorno, ci siamo sentiti, poi l'ho visto su internet. Ha fatto campionato sardo, mi sembra, è arrivato prima in una gara, poi nell'altra è arrivato terzo di classe, boh, non mi ricordo. Saranno bene, però lui fa tiro, credo, piattello, non ne capisco niente io di questa cosa. Quello è pollacciotto! Che avanti? Quello è pollacciotto, hai capito? Non c'è buono a sparare. Che Tino, tu sei. Buongiorno, ciao Natalina, ciao Robè. Sì, Marco è forte, forte. Cacchetti, ogni tanto cambia il radio, adesso sembra un'altra persona, sta facendo forte e chiaro, però magari Gitto, mi sembrava il segnale di Eugenio, ma non è lui. Vai Natalia. Ciao Tino. Ciao Natalia. Sono nel contender, sto preparando l'antenna a vedere se va meglio di questa qua. Questa non va neanche a ruccio, che sto usando una, cacchio si chiama, una Game Master, autocostruita, non so da un cacchio. Ottino, un interrogativo, non è che c'hai una basetta di PLC 800 per caso, no? Lo sai che forse ce l'ho, devo vedere, perché ne ho due di antenne, Natali, la PLC 2001 e poi ne ho un'altra, non so se 800 o 600, devo guardare. A me mi interessa solo la basetta per non togliere quella della macchina, se no non saprei cosa mettere al suo posto, perché così mi avrei fatto l'antennino qua per il 3009. Aspetta, dammi un minuto, tanto ce l'avevo portata in mano, vado a guardare, Chi c'era prima Natalie, prima di andare io? Altre due persone, non ho capito neanche chi erano, perché arrivavano bassi e quella arrivava fortissimo e gliel'ho detto, non fa perché non ci lascia parlare. Ah, non è la gente di qua, di noi? No, arrivavano bassini. A quell'altro caso aveva un caso da muri, fuori si può respirare, c'è un leggero brezzolino, ti posso dire piacevole. Io c'avevo, ti ricordi che c'avevo la PLC 800 sopra il frigorifero, Robè? Frigorifero, cioè? Oh, Natali! Ehi! Allora, ho lo stilo con la carica, la basetta non ce l'ho. Lo stilo con la carica ce l'ho, io ce l'ho completa l'antenna, no? A me mi serviva la basetta per poterla mettere su una base magnetica e attaccare l'antenna della macchina alla base magnetica che avrei messo sul frigorifero. Io modulavo pure con quella mia, lo usavo anticivolte da noi. No, mi dispiace, non ce l'ho. Va bene, sono in QDX che sto facendo, la sto piazzando, così vedo un po' se funziona. Vado da Fusaro, dovrebbe averle quelle basette lì. Perché vengono anche le basette separate? Sì signora, mi sembra che costava 18 euro, così mi ricompravo la base magnetica, completa il cavo e tutto ce la danno, no? C'ha 5 metri rotti di cavo la PLC 800. E così mi faccio l'antennino per il 3009, se no rimane inutilizzato, manca ascoltare, lo posso usare. Ah, tu stai dicendo 3009 il modello della parete, io stavo pensando, ho detto che il 3009 la ci fai in quale frequenza? No, l'apparato, l'omologato, il 3009, che è bello come apparato, solo che è omologato e non ha né canali né potenza, nulla, con 4 watt, c'ha 40 canali solo, è bloccato lì da dentro. Però se lo apri perdi l'omologazione, hai capito? Ma scusa un un attimino, ma l'antenna che avevi in macchina tu che fine ha fatto? E ce l'ho in macchina, infatti. Ce l'ho. Però per usare quello stilo ci vuole un'altra basetta, se no non so cosa mettere al posto della basetta nella macchina, capito, se la tolgo. Io ce l'ho completa l'antenna. Ma l'antenna tua è bucata tu la carrozzeria. E devi metterci, allora tu c'hai la base piazzata sulla macchina con l'antenna sua, così confermi. Ehi, la tua auto. L'antenna ce l'ho. L'auto su noi compriamo auto.it. Capito? C'ho l'antenna completa io. A me basta avvitare l'antenna e la uso, no? Nella macchina. Però io me la volevo usare qua come antennino per ascoltare col 3009. Ah, tu parlavi di mettertela a casa, non avevo capito quello, pensavo che la volessi mettere in macchina. No, in macchina ce l'ho l'impianto già fatto, che siccome non la uso in macchina, me la volevo portare qua e usare come antennino. Ok, capito. Aspetta, facciamo un'altra chiamata generale, vediamo se qualcuno vuole entrare. Nel frattempo, attenzione, canale 10, chi vuole entrare? Sto parlando, ne sente qualcuno, però niente di vicino. Avanti a te di nuovo, Natalia. E cappa. E cosa vuoi che te dica? Arrivo io, lo stesso segnale di quello là, così è. È un pochettino più basso, ma tu sei qua a 9.25, lui era appena un po' più alto. Quindi avevo ragione io, che è un'altra persona. Non lo so, io non so chi sia, non posso commentare perché non so chi sia. Sì, non ti preoccupare. Anche un'altra persona ieri ha detto che è un altro. E non ci sbagliamo, Non lo so, Natalia, non so chi possa essere. Con quei segnali un paio di persone ci sono, però siccome cambia il segnale, questo è il dubbio. Va bene, e da te quanto sto arrivando con questo? 9 più 5. Va bene, così almeno tengo in considerazione questo segnale per vedere l'altra antenna, quando l'avrò fatta però. 9 più 5 modulato, fisso o no? Vabbè, sono con un 4 watt, un Seat SSB, 32 canali, no, 23 canali. E io come ti arrivo con quell'antenna lì confrontata a come ti arrivo normalmente? Non te lo dico, che se no ti vedi a piangere. A 8 ci arrivo. 4? E la radio com'è? Fruscio? No, la radio va bene. E tutti i segnali bassi qua, Ma lo switch è un pochettino starato, per arrivare 4, radio 5, ma ora è 5 la radio. Sì, la radio va bene, ma il segnale è basso. E questa antenna che non serve un cacchio. Sì, però stai radiando, se ti arrivi tu arrivi 9 da me più o meno, io ti arrivo 4, vuol dire che magari lo smitter è starato un pochettino, io so c'ho più di quello normale che stai utilizzando tu di va. Allora, te ne dico un'altra, anzi no, scusa un attimino, aspetta, è acceso, sto andando col 747, guarda, adesso lo tolgo, pensavo che era disincirito, guarda adesso. Prova le due funzioni. Così è attaccato. Da 8 passi a 9. Santiago 8, dove sia? Vabbè, tu hai molto più forte, probabilmente un'antenna un po' più performante e una radio un pochettino più seria. Sì, no, quanto ti arrivo io a te? Hai lo stesso segnale di Roberto. Addirittura. Ehi, sto dicendo che... Ma non serve, l'antenna non serve, porca miseria. Ho speso 50 euro stamattina per comprare una Grand Prix. Beh, almeno va meglio dell'altra, dai. Ma questa è una posizione di emergenza, di secondaria, cioè tra l'altro ce l'hai sempre. Ma no, questa è, diciamo, nel piazzale di casa dove ho il container che faccio i lavoretti così, capito? Sì, ma l'altra antenna, quella diciamo seria, ce l'hai ancora? Certo, quella in casa però. Quella là, questa diciamo, chiamiamola stazione secondaria, dai questa. Sì, dai. E io. Cazzo, sono geloso, sono, mamma mia, adesso me ne scendo la mazza a 5-12 metri di palo che c'ho in campagna. Ma chi la tiene direttamente in campagna, Natali? Sì, se salgo lì, escono le scintille. Ma allora non uso questo, no? Già lo so, visto che c'è la possibilità di andare, io sarei andato, come si dice. Mi tocca abitare lì, non ne ho voglia. Ti spiegherò. Vabbè, ci avrai motivi validi pure tu, sicuramente, se non faccio un motivo. La faccio una prova, sto guardando una cosa. C'è un frequenzimetro, sto guardando lo spostamento di frequenza di questi apparati. Quindi può cabicciare con Marco, che siamo troppo vicini, perché lui mi sblattera. Vabbè, adesso vado a Marco, non devi mettere roba sotto. Se ti dico dopo mi sblatterava, ti spavento. Guarda, io qua, in questa posizione, il segnale più forte mai ricevuto, l'ho ricevuto da lui. Una volta ha fatto una prova, una cosa spara, considerando che non siamo attaccati. Ehi, lo so, Roberto. Però lui c'ha quegli affari bianchi anche, capito? Quegli scaffali grandi da cosa? Da ambulatorio? No, non parlo degli scaffali, no. C'ha quelle scatole bianche. Già c'ha tutto, già non... Ah, non mi manca niente, a grande Marco, numero uno sempre. Marco, bravissimo. Questo motore particolare, il rapporto di aria che vai... Sì, no, ti interessa un affare a pompa, che ce l'ho. Non volevo. Uno di quelli affari a pompa per andare a caccia al cinghiale. No, io ho 5 ne ho, Natali. A parte che a pompa è bello, più che altro difesa personale, a caccia io lo sconsiglio. lo so, cazzo troppo volti, ma ragazzi, quando dico. C'ho anche il calcio a pistola, ma con quello no, non puoi fare, cazzo, ti mi sei gani russo. No, ma allora, io ho visto la scena a Natalì, a Pernici, ci sono state 5 pernici a campanile, e chi giù era tirati con così la pompa ne manco una lampada, perché faceva sparando, caricando e perdendo la vita di nuovo. Poi... capito usare vuole. Cazzo, io l'ho a palla, amico, l'ha giocato un bucaro bersaglio. Però col calcio normale, con quello a pistola non si può, no. È troppo forte, dazzi un rinculo. Se non imbracci bene ti siede a culo a terra quello. Già lo so, già lo so. No, io ne ho 5, va, credimi, non so se prendermi. Io c'ho la carabina pure, la 22, cazzo, col cannocchiale. Scusi, tu a cazzo non dice non mi vuoi andare, ma era giù. Ce l'ho anche io quella lì, ho anche la 16. Tutti ecologisti siete, comunque vedo. Vabbè, io guarda, diciamo la verità, avevo anche la 9x21 l'ho venduta. Mi ho tenuto quella piccolina, la 65, giusto per fare rumore, e poi già fa male anche. Se fa male sì, ce l'ho anch'io quella, io c'ho il modello 70. No, l'altra l'ho venduta, la usavo per fare la stessa cosa che facevi tu. Io quella lì che hai venduto tu, c'ho quella di plastica. Mi stavo per prendere la Glock e poi invece non se ne è fatto più niente. Brutta è come pistola, ma è perché precisa. Cazzo, dove mi dici? Va il colpo. Di lusso. Ti ho preso una mano io con quella. Col cavolo che sbaglio. Vabbè dai, che se no non riesco a fare. Dai, riprendi, Robè. Okay. Ma quella pompa non sono fuori legge, fucile. No, ma è perché sono fuori legge. Ma lo è anche per una... La pompa, quelli con le canne mozzate, quelli lì sono. C'ha la canna corta, c'ha. Senza necessità. Cazzo, ma dargli un rinculo quando spara, che è una cosa paurosa. Io ero abituato con quello a recupero di gas quando andavo a caccia. Cazzo, proprio quello, uia. No, non mi è mai appassionata. La ragazzino sì, col tiro elastico sì, ma le armi lasciamole a chi le sa usare. Non mi è mai piaciuto. Mio suocero era cacciatore appassionato forte, ma va bene qua, la Sabilli non è per me, a me non piace. Fatta le temo le armi. Sì, infatti sì, non le temo. Non va bene. No, io vado con la 9, con la calibro 9. Mentre sono in volo. Vado. La cosa che mi stupisce è che qualcun altro ha detto... Sì, c'ho la 7. quella come quella di Tino. Quella è più vecchia di me. È bellissima. Ma con la pistola non si può andare a caccia. No, con la pistola, guarda. No, dico, la legge lo permette di utilizzare la pistola per andare a caccia. Non si può andare a caccia con la... Anche la legge. Poi devi avere il porto d'arma per portarla. Il porto d'arma per la pistola non te lo danno così. Sì, ma scusa, il fucile sì, puoi uscire che fa più danno un fucile di una pistola, mentre con la pistola tu non puoi andare. Devi avere, a parte che per caccia non te ne danno forse armi, no? Già non te ne danno per difesa personale, come fai a portare la pistola? Non lo so, io questo non lo so, non sono addentrato in materia, però dico, tu puoi portare un fucile in macchina e andare a cacciare, e teoricamente puoi ammazzare anche una persona, mentre la pistola, che diciamo è meno potente, anche se il danno lo fa uguale, non ci puoi andare. Cosa a caccia non fa? No, non è detto che non fa, magari è più difficile, nel senso, perché la precisione di un fucile magari riesce a impugnarlo meglio, la pistola è un po' più difficile, diciamo, da impugnare, per dire a lunga distanza, almeno magari da vicino magari è semplice, però dico, mi sembra un controsenso, secondo me sono tutte e due armi per nuocere in ogni caso, uno un po' più potente e l'altro meno potente, neanche i cannocchiali per usare a caccia. Ah, quindi sì. Ah, si può utilizzare il fucile a cannocchiale, per dire, tipo quelli che usano i cecchini, un fucile lungo. E allora, se no come fai ad andare a Cervi, tanto per dire, a Daini, quella specie di animali che li devi sparare da lontano? Hanno le carabine con i cannocchiali. E di notte invece non si può andare a caccia? No, di notte no. Perché c'è gente, quelli che vanno con i coso, con i visori infrarosso, eccetera. Sì, ma quelli sono bracconieri però. Quindi no, facciamo male in certe zone, in certi parchi perfettamente recintati e cose, dove ci sono, tipo quando vai a pescare in posti che ti dicono mi qua vuoi a pescare, c'è il coso, c'è la sedietta già pronto. Non esistono posti, negli Stati Uniti forse esistono questi posti per andare a cacciare, tipo parchi chiusi, fatti apposta tipo un poligono. Qua non ve ne penso, ci sono le riserve di caccia. Per esempio in America puoi andare anche con la 22, con la carabina che ho io, puoi andare a caccia. Invece qua no, è proibita. Allora io ho un amico mio che è andato l'anno scorso dopo il Covid, verso maggio, è andato negli Stati Uniti apposta a Miami, ci ha fatto la vacanza, è stato 15 giorni, questo è appassionato di armi, ha le licenze e tutto, cacciatore, fatto dal bersaglio eccetera, è andato in America per sparare col carro armato, $1,200 per dare un colpo col carro armato, c'è una specie di dice tipo cave, cose così, posti disabitati, paghi e ti fanno sparare con qualunque cosa, con i bazooka, mortai, carro armato, qualunque cosa, ha pagato un tiro $1,200. Sì, lo so, in America è tutto permesso. In America puoi avere il Kalashnikov e spari tranquillamente a raffica. Qua ci sono i Kalashnikov, ho sparato anch'io con quello, solo che gli tolgono la raffica, qua non lo puoi usare a raffica, capito? Lo puoi usare solo a tiro singolo. E leggi diverse sono, qua siamo molto più ristretti con le leggi. Bambini! Già è meglio, questo tanto già si ammazza nel bug in America, non l'hai visto? Perché non so se, non vorrei dire che è seria, ma a me sembra che il 20% della popolazione americana hanno delle armi in casa. Fate l'ugoto, sono mi pare 300 milioni di abitanti, negli Stati di più pure. Quanti cose ci sono? Quante armi ci sono in circolazione? Perché uno non ne ha una solo, ne avrà 5 o 6 come minimo, poi ci sono gli appassionati, ci avranno la riserva. E lì la maggior parte della popolazione ce l'ha, perché è un diritto che ti dà la Costituzione americana, che devi essere armato, capito? Ti puoi difendere, ma in Italia se tu spari a uno, anche lo prendi di striscio, lo devi burubagare, che te ne andate in casa tua a rubare. Hai visto quel coso che le hanno picchiati, quel gioielliere? Adesso ne stanno facendo una cosa politica, e lo mettono in galera mia quello. Eia, se li ha inseguiti fuori dal negozio, lo mettono in galera, poi alle spalle non puoi mai spararlo a lui. Stanno morendo di fame. In America lo stesso, in America solo la polizia ti può sparare alle spalle. Lì in America te la fanno pagare se non è chiara la cosa. Se invece la legittima difesa non ti indagano neanche in America. Sì, già lo so, qua è tutto un coso, eccesso di legittima difesa, quello viene, ti picchia, ti petta, ti biglia, fa zappisti, tu prendi un'arma, la togli da terra dove la trovi, dai, c'è a casa, lo spari e non lo puoi sparare, ti fanno il processo qua da noi. Perché da noi c'è il reato di eccesso di legittima difesa, è quello che devono togliere, perché il giudice interpreta, no, invece la legge no, uno che si difende non deve essere manco indagato, deve essere sempre legittima difesa, l'eccesso di legittima difesa non deve esistere, perché sennò finisci in galera subito. Eh certo, no, purtroppo certe leggi non vanno assolutamente bene qua in Italia, troppe cose libertine, che anche poi quello che ha ammazzato 150 persone, che ha bruciato il bambino nell'acido, cioè, quello lì è libero, cacchio, quello che quelli dell'Ilva senza niente togliere tutto il danno che possono aver fatto, cacchio, gli ha dato 24 anni di carcere, a quello Brusca dopo 25 o 24, adesso non so quant'è, che ha ammazzato quasi 200 persone, più quel bambino poverello, non ne parliamo, l'hanno lasciato uccidere, ma ti rendi conto, l'altro Corona, che sarà un pezzo di merda, tutto quello che vuoi, sarà un antipatico, che però non ha ammazzato nessuno, ha fatto soltanto delle foto, ha toccato le persone sbagliate, 14 anni di galera. E quello è per esempio persecuzione, è perché si è comportato male davanti ai giudici, gli hanno dato quel tanto. Brusca lo stesso, per me è ingiusto che uno si penta che diventi collaboratore di giustizia e poi ha fatto 150 omicidi, ma io gravisco Saedo nell'acido. Piano piano, aspetta, aspetta, un pugno e mezzo ne brucia un pezzo di altro, lo metti prima un piede, poi l'altro, fino a salire, poi alla fine tocchi gli organi vitali e lo vedi, lo fai morire piano piano, non dico ammazzarlo subito, piano piano, gli dai la possibilità di soffrire come ha fatto soffrire certa gente, lo disinfetti, lo curi e poi di nuovo un altro pezzettino sino ad arrivare a salire dalle caviglie sino ad arrivare là sopra, e vedi che piano piano la gente si ricrede, qua vengono i peggiori criminali dai paesi dell'est, quindi tanto non si fa vedere nulla in Italia, vengono, ammazza, se ne dollano, ma per forza che sta diventando uno schifo. Adesso quel ragazzo, quell'Omar, quell'altro che hanno ammazzato il padre, la madre, il fratellino, furi 17 anni di carcere, furi quell'altro che ha ammazzato quella contessa, non so cosa, che dopo tanti anni l'hanno scoperto, 15 anni di carcere furi, ma dove sei mai visto? Qua tu puoi fare il peggiore omicidio del mondo, che non ti fanno niente, vai a farlo negli Stati Uniti, basta che fai, addirittura negli Stati Uniti se c'hai somme di pene ti arrivi sino all'ergastolo dopo un certo numero, se sei recidivo, anche se non hai ammazzato nessuno, ti danno la pena di ergastolo, in qualche caso danno anche la pena di morte in certi stati, però cacchio, qua in Italia stai diventando una vergogna la cosa, cioè tu sei per dire ti difendi e spari a uno, ti danno 10 anni di carcere, lo stesso che ti ammazza massimo se ne fa 15 di carcere, perché non c'è neanche la pena certa qua, tu ammazzi a uno l'ergastolo, fine pena mai, così bisogna fare, uno che si difende la medaglia d'oro gli avrei dato, cosa cazzo lo indaghi a quel poveraccio, gli fai passare 7 anni della sua vita pagando gli avvocati, quei ladri legalizzati, a chi non c'è peggior ladro dell'avvocato, è successo a me pure. No, ma la cosa più bella è che questi personaggi così importanti ci avranno 4-5 poliziotti che li stanno addosso 24 ore su 24, lo controllano, fa. Sai cosa vuol dire? Cosa spende lo Stato per questa roba? Telecamere, servizi speciali di coso, di controlli quando vengono parenti e cose del genere rispetto a un detenuto comune. Io la mia bigliata in un'isola, cacchio, tipo cosa fosse, non dico la Sinai perché è troppo vicino la Sinai, un'isola sperduta nel Mediterraneo, che tipo Alcatraz, un posto così, Santa Elena, un posto che dal posto più vicino ci sono 50 km, in modo che neanche a nuoto ci puoi andare. Fatto così avrei fatto all'aria aperta, al carcere aperto, senza bisogno di cose. Preparatevi da mangiare, fate tutto che su voi, coltivate e fatevi tutto, lo so che è difficile da realizzare, però vi avrà dato un minimo di pasto, poi se volete fare coltivazioni fatte e ti rimane di lì, tutto blindato, nel senso che non si potesse avvicinare nessuno, nessuna nave nell'arco di 30 km o comuni con tutti i sensori, perché ci dobbiamo spendere noi soldi per tenere questi personaggi in coso, sotto controllo e sotto tutela, a spese che spendiamo centinaia di migliaia di euro all'anno per ognuno di questi detenuti d'eliti, chiamiamoli. Lui, l'unico carcere come si deve che avevamo, la Sinara l'hanno aperto, i tipi di Agigli, proprio visto, a rovinare anche quella l'isola. La Sinara è troppo vicino a Tintino, a nuoto sei già arrivato, uno se riesce piano piano in mare di notte di nascosto riesce, come è scappato Matteo Boe, dai, di uno non è scappato, un'isola lontano, quella di Bussudi tipo Lampedusa, dai, non facciamo, diciamo che Lampedusa è abitata, un'isola disabitata dove non c'è niente, uno scoglio in mezzo al mare, un paio di ettari del Reno, boh, te arrangetevi, gli fai una, come si chiama, una cosa per una dimora per dormire e boh, senza niente, e boh, da mangiare un minimo indispensabile, carcerieri super selezionati di quei volontari tipo legione straniera, gente motivata, no? Carcerieri poverini con padre di famiglia che rischi la vita e poi non ti dà nulla, gente che non gliela futti nuda, tipo legione straniera, messi di lì, li paghi bene perché li fai pagare bene e li metti di dentro, vedi che la gente, ah cacchio, ma se fai certi reati allora ti mettono in queste isole penali, e vedi che la gente prima di fare qualcosa ci pensa. Allora, come guardi i carcerari, il più piccolo 2 metri alto. Qui i cazzo li sputano, li fanno le guardie carcerarie, ma li ha fatto a me cazzo la più battuta un'ugola, più fatto. Invece manco Duccari buia, questi delinquenti. Lo so, poi ogni tanto quando si gira qualche guardia carceraria che magari reagisce male, giustamente, li inquisiscono, gli danno 3 anni di galera, cose, e poi li mettono in mezzo ai detenuti comuni, poverini, che li fanno a bene. Io ho sentito certe storie, io ne ho amici che lavorano in questi servizi qua, ma cose allucinanti, che se ne svegliano la mattina, beh, da oggi facciamo sciopero, si iniziano a battere, a pestare tutto il giorno, notte e giorno, notte e giorno, alla fine escono di testa anche loro, ne bisogna negare di uno e li pizzi che già ne è, però cacchio, poi devi stare attento come reagisci, perché se ti metti troppo duro ti mettono 2 o 3 carcerati da dietro, tu, e ti tirano una coltellata per sbaglio. Allora, col cucchiaino, cazzo, fatta coltellare. Lasciamo perdere, guarda. Io conosco persone che lavorano tanti anni, anche medici che lavorano di lì dentro, mi raccontano certe storie allucinanti, cioè, sta diventando una cionfra, poi ci sono questi cacchio di politici di merda che vanno a vedere, a difenderli, perché quel tipo, ti ricordi quello Cesare Battisti, che dopo non so quanti anni siamo riusciti a recuperarlo perché i francesi non ce l'avevano, e finalmente non è giusto il carcere, dopo che ha ammazzato famiglie, hanno messo bombe senza un motivo valido, perché uno mi dice, perché uno va di tipo mesina, cose del genere, ha fatto delle cose mai, però c'aveva anche una motivazione, ma no, questi lo facevano così per divertimento, facevano saltare le bombe, mettevano le bombe per il divertimento, senza nessuno scopo, facevano rapine per interesse personale, cose del genere, proprio gente fanatica senza motivo. Via che ci terrorizzino, in mano a me le 2 anni da. E poi ci sono quelli che fanno finta di essere pentiti, eccetera, eccetera, e poi gli danno le attenuanti, ma forse in quel momento qua, là, cacchio, dall'ergastolo poi lo trasformi in 30 anni, da 30 anni arrivati lì, quindi sei sotto la liberi. Ma l'hai visto tu quel pezzente che avevano fatto vedere la televisione con quel programma di De Beglio, come cacchio si chiama, che lui ha fatto sangue, c'ha le mani macchiate di sangue, ma non se ne pente perché era un periodo storico in cui queste cose, cacchio, ma danno una giustificazione, salva di questa storia. Ehi, ma lo sai Brusca chi è? È quello che ha premuto il telecomando per far saltare in alto Falcone e la moglie e la scorta, quello dei 150 omicidi, è quello che ha fatto la strage di Cappacci e l'avrei lasciato libero a quello. Ma io dico una cosa, lì ne ha ammazzato 3, 4, 5, io non lo so quanti ne ha ammazzato, sono un'enormità, ma oltre a quelli ne ha ammazzato altri 150, è la cosa più vergognosa, ha sciolto un bambino, io ho letto quando lo stavano interrogando, e ha raccontato i particolari di questo bambino, cosa, povero bambino, come come ha sofferto questo. Gli hanno messo il ginocchio sul collo, l'hanno messo in terra col ginocchio, l'hanno strozzato con uno spago, con una cinta da strozzare. Dice, questo bambino dallo spavento si è cagato e pisciato sotto. Dice, poi l'abbiamo preso, l'abbiamo messo dentro un bidone, una tamburana di acido, ogni tanto andavamo, rimaneva un pezzo di piede, rimaneva. Scusate, l'hanno tirato con un protettore, scusate. Ora posso girare da capo, vi vorrei, che rosa, che muri troppo in pressa. Cosa ne pare che c'è niente in mezzo? Guarda, sono rientrato, hai sentito quello che ti ho detto? Cosa faresti tu, padre di quel bambino o mamma che ti fanno una cosa del genere? Io a lui come l'avrei trovato l'avrei trivellato. Lanciato, ben sentito. La cosa più bella è che adesso gli danno una nuova identità, lui non si chiama più Brusca, si chiama Badi Francesco Faccione o chi su che è, gli danno vestiti, pensione, tutto quanto. Quello non lavorerà mai in vita sua, a meno che non gli trovano qualche lavoretto, ma non credo a quell'età che gli trovino qualcosa. Tutelato lui, i parenti e tutto quanto, e vivrà scortato perché ci sarà la scorta. E la cosa bella, io mi auguro che qualcuno tira fuori il nome, mica è questo che si chiama Francesco Luciano, chi su che è, non è lui ed è questo Brusca, e qualcuno si sveglia e gli faccia un segno di riconoscimento, cacchio, come è capitato a quel pedofilo che aveva violentato la figlia, la bambina, l'aveva ammazzata e poi l'avevano liberato dopo 15 anni. Rubabba ha esitato che uscire dal penitenziario, subito l'ha ammazzato, dice cacchio la vendetta, tutto non te ne devi dimenticare di mia figlia. Una fuggirata per la brutta. No, troppo presto. Caricato piano piano in macchina, poi passa a montagna, un'iniezione per addormentarlo e poi lo leghi in una gadria, come fanno in quei film di cose. Legato di lì e poi adesso mi arrangio io, piano piano. No, ma farlo troppo in fretta non va bene. Stata lì. Non va bene, no. Se lo sparo a palla io, gatto, con un colpo solo in testa muore, ecco, subito, fulminato. Non va bene a spararlo, no? Magari spararlo a pallini alle gambe, ogni tanto un colpo. Ma senza ammazzarlo, cioè tu non lo devi ammazzare, devi lasciare un pezzaredo per volta, piano piano, lo curi, per dire, gli estracchi un pezzo di gamba, un pezzo di beni, e lo curi, lo disinfetti, tutto quanto, in modo che lui ci abbia tutti i dolori che ha creato, se li tenga piano piano. Scappa, e non è meglio legarlo all'albero, con un bastone pieno di giode, cu di vere gata, non di ben a me. Sì, ma non chiudi troppo profondi, che entri un po' con un paio di centimetri, in modo che non tocchi gli organi vitali, un paio di golpe ogni tanto, tu le ca, poi una passata di pompa ogni tanto per lavarlo, poi di acqua per bere e qualche pezzo di pane, in modo che lo tieni in vita, così lo fai una quindicina di giorni e vedi che piano piano ribassa Lumacchini, alla fine ti dirà lui ammazzami. Che schifo di gente, ma anche a fare queste cose, dai, ma che schifo di gente, io mi sarei anche rifiutato di uscire dal carcere. Lì là tutti questi cacchio di radicali e totalitarienti, radical chic e totalitarienti, che la prigione deve essere una cosa umana. Ma raga, dopo che hai ammazzato 200 persone, come si chiama? Non sappiamo poi come le ammazzate neanche le persone. La cosa più brutta è il bambino, cioè non esiste. Cioè, tutti i peggiori criminali, i bambini e le donne li hanno più o meno rispettati, a parte qualche imbecille sadico. Tu che hai ammazzato un bambino di 12 anni, ma te ne rendi conto? Ma hanno contravvenuto allo stesso codice d'onore che avevano. La mafia, i bambini e le donne non le doveva toccare assolutamente. Però quelli erano corleonesi, erano capitolai. Sì, appunto, hanno saltato tutte le regole. Anche i peggiori criminali hanno sempre una coscienza, una cosa. Anche i banditi, coso. Raramente, alla fine hanno rapito i bambini, perché normalmente prendevano sempre gli adulti quando c'era la nomina sequestri. Raro, con Farucco qualcosa hanno fatto, ma erano fuoriusciti proprio i veri banditi, non le facevano di queste cose. Beh, sì, però io vi devo lasciare che devo far cosa adesso. Ciao Antonio, ciao Natalino, anche Tino se ne ascolta e tutti gli eventuali amici qua sul canale 10, io devo far cosa. Ciao ciao, alle prossime, Mari, stasera se coincide. Ciao Robè, ciao Le Prusse. Qui che c'è stato uno fischiando, chi era? Ciao Robè, ciao, sono in quel Rixi, eh. Ciao Tino, no, ma era un altro fischiando, chi era? Robè, la più forte il segnale, dai, ciao Leo a tutti. Ciao, ciao Robè, ci sentiamo. Ciao Robè, buon quel Rixi, Tino, avanti a tu. Cappa cappa, saluto di Tino, ci sentiamo. Che schifo di gente è nata lì. Quello che hanno combinato, per carità. Ciao Mantu, scusa, sono con X, sono scuri, dai, vi sto ascoltando. Capa, chi è che può entrare, avanti? Avanti, ora. Ui, ai, ai. Natalizia ancora. Eia. Capa. Non lo so, sono passato al tabacchino lì da coso. Come si chiama? La Serafina. Quando è che sei passato? Poco fa. Sono pure di su. Meglio che ero in fretta, ero Natali. In fretta proprio. Io ho sentito nel casino. Ieri notte c'era gente parlando, cazzo. Hanno suonato dal vivo in quel bar che c'è vicino alle suore. Cappa! Quando faccio l'esibizione ci vieni? Sì. L'unica cosa che mi dispiace è non posso bere, cavolo. Lo so. Adesso, cazzo, mi hanno detto l'alcol vietato. Cazzo, adesso non so se un bicchiere di vino me lo posso bere a pranzo. Boh. Bisogna chiedere a qualcuno che ce l'ha il diabete. Non fa di nulla, ne ha dato. No, a pranzo, solo a pranzo, mezzo bicchiere di vino. Scappa, non fa di nulla. Sì, Natali, basta abusarne. Perché c'ho la visita a novembre con la dottoressa, a chiederlo alla dottoressa. No, vabbè, mangiando un bicchiere non fa niente, però te lo dico perché ce l'aveva mio suocero, capito, quindi... Però non lo devi abusare. No, non ho mai abusato, non sono bevitore io, no. Mezzo bicchiere mangiando mi avrebbe fatto piacere, capito? E già, d'accordo. Uruguisso mi doveva venire. Dalla pancreatite mi è venuto. Cosa vuoi fare? L'importante è raccontarlo. E infatti sono vivo per miracolo. Cazzo. In più, due volte c'è l'operatoria, di più ne vuoi. Chi più ne ha più ne metto. Di tutte di più mi è capitato. Oh, carizzare che... Uiaia. Ieri sera ci stavamo aspettando e non vi sei entrati. No, ieri sera non c'ero, ieri c'era la Chanté. Capo, chi c'era in radio? Chi c'era in radio? E c'ero io, Giulio, Gianfranco, c'è la portante. Ero quello guglione. Emanuela Ghissuno, un asso di passione. Sicuro? Eia, perché da Roberto mi tappava, e invece arriva più forte il segnale di quello là. Ehi, curillineare yoga, Edo. Ma io sono in mezzo, dovevo passare io. Non passi perché non hai potenza. Accommetti che se vai a Casadoglia con Agigio rimassi due voci sopra. Sì, comunque abbiamo parlato lo stesso a tutti. Non c'è problema. Che di problema, una prova, vedi. Avessi chi chieggia. Gli chi chieggia, io lo so che chi chieggia, ma io dimmo di dici, ma... Hai capito? No, quindi... Sono costretto a usare questo apparecchietto qua. E io dico che Natali, dico solo una cosa, dico, che si pone ghiso, tratti ghiso, c'è un televisore che distrubi direttamente. Infatti. Poi intendi il fiaco di bruciato da un poco. Santiago di Daura. Ma è vero, a secondo dei cazzi, se lì entra bene la radio, il TVI, se lì entra un bel forte, può fondere qualche cosa al televisore? Ah, non credo. Io gli spegnevo direttamente il quadro con due batterie, un su minorizzo mio, omologato. Come ti chiamavo? Subito nero si faceva il video, perché adesso sono digitali, non li subi più, che si vedono le strisce e cose, li spegni direttamente lo schermo. Non so, l'interrompi la cosa, l'interrompi la trasmissione. Io sono quello, perché esco sempre con due date e mezzo. Aumento solo quando devo aumentare, se no sempre con due date e mezzo. Tutti vanno disturbati. Io non sto disturbando perché non è venuto mai più nessuno a dire che stavo disturbando. Scappa. Secondo me adesso a calata potenza non gli fai nulla, secondo me. No, se no sarebbero venuti a dire che mi stavo disturbando. No, io... Scappa. Comunque va bene, anda bene me. Stracco gioco. Prima di andare in giro la notte, e da voi gatta non ne vuoi la vita. Non parli adesso, bello bene. Andate in giro a fare balduria. E allora, vai a fare balduria, va. Scappa. Adesso telefono a Sara e glielo dico. Sei Rugunetta. Se tutto va bene siamo rovinati. Scappa, non mica mi lascio lei a casa, lei viene con me sempre. Sì, stavo scherzando, glielo già. Niente, Concetta, gli fai bene, ha detto. E fai tu, sai chi dai favore a Sara, no? Dimmi, Concè. Anto, passami lasciare un attimino a sentirla. A te deve salire un attimino. È impegnata, è giù. Sta togliendo la roba da stendere. E non può. E gliel'ho detto che sicuramente... Ascolta, dille di darmi il numero di telefono suo. Ok. Sara! Ha detto di darle il numero di telefono, ha detto di darle. Aspetta che glielo mando. Lo manda a Natalino, ok. Di là manda. Natalino, ho fatto uno screenshot e te l'ho mandato il numero, eh. E dopo già glielo do a così. Allora cosa mangio cucinato? E cosa, Natalie? Un po', fai insalata, mi rubo. Ma tu beh. Poi, viso di Gigioni, va, oh yeah. Mi faccia a me, fa. Scappa, oh yeah. Adesso devo fare un attimino io, su, mamma mia. Che giornataccia oggi. Già ci sentiamo stasera al limite. E io vado che devo fare cosa, Antonio, qui. Kappa. Antonio, buon pranzo e niente. C'è nessuno? Hola. Chi è, avanti? Aiuto, per un controllo, c'è nessuno? Babbo, prendete a parlare il professor, ciao.